Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Queste sono per te, lo faremo subito, la tua morte è stata decisa nel nome di Allah e di Hezbollah. Questo lo stesso messaggio in entrambe le lettere recapitate sia a Roma che a Potenza. Purtroppo sì. Due lettere con due proiettili e una stessa minaccia di morte nel nome di Allah. La vita di Nello Rega, 43 anni, inviato di Televideo, è cambiata da quando ha deciso di descrivere l'amore diverso, per dirla col titolo del suo libro, condiviso con una donna libanese che per lui aveva lasciato il paese e il velo, ma che poi è sparita nel nulla. Dopo la divisione sono cominciate le lettere trovate sotto la porta, i biglietti a casa della madre, le foto del leader Hezbollah là sul parabrezza, i messaggi per fargli capire che lo seguivano. Quando sono arrivati i proiettili, il prefetto ha disposto una tutela per Rega, colpevole di aver scritto diversi e divisi diario di una convivenza con l'Islam. Le ho ricevute diverse settimane fa, prima cartacee, sia a Roma sia a Potenza dove c'è la mia famiglia, e poi man mano c'è stata un'escalation di violenze, ma anche di durezza di queste minacce, fino ad arrivare a due buste con due proiettili nelle ultime due settimane. Due buste con due proiettili che ti sono state recapitate a casa tua e a casa della tua famiglia. Sì, sì, la mia famiglia è sempre coinvolta in questo, purtroppo. La prima le ho trovate a Roma sulla mia macchina, nel parcheggio di casa, non spedite quindi, ma appoggiate sul parabrezza. La seconda busta è stata invece spedita da Roma a Potenza. Ecco Nello, all'interno di queste buste, insieme ai proiettili, c'era un biglietto? C'era un biglietto nella prima in cui si faceva riferimento a quello che io scrivevo nella mia attività di giornalista e quello che diffondevo. Io mi occupo di esteri, quindi conosco abbastanza bene la realtà medio orientale in tutte le sue sfaccettature. Nella seconda c'era una copia della copertina di questo ultimo libro. In entrambe le lettere c'era riferimento ad una sorta di sentenza di morte che sarebbe stata eseguita o che sarà eseguita, e ovviamente cerco di deviare il corso della loro volontà da Hezbollah e nel nome di Allah. Ci arriviamo a questo e ci arriviamo al libro che hai scritto, che chiama in causa un pezzo, diciamo, della tua vita privata e che sarebbe all'origine di queste minacce. Ma era scritto a penna, se era scritto a macchina? No, come scritti entrambi al computer. Ecco Nello, tu conosci e segui le vicende medio orientali da tempo, ma soprattutto hai avuto una conoscenza diretta anche del mondo più quotidiano, possiamo definirlo così, di alcune aree difficili e complesse, diciamo, del Medio Oriente, con una tua vicenda privata, con una tua storia d'amore. Perché subito hai pensato che queste minacce fossero collegate alla tua ex compagna e al libro che hai appena scritto? Era esplicitamente citato in questi biglietti? Nell'ultimo biglietto c'era la fotocopia della copertina, che si può trovare comodamente sul web, in tanti siti, in quello ufficiale del libro, eccetera. E come dicevo prima, le minacce sono cominciate un po' di mesi fa. Ovviamente non posso avere la certezza, non lo potrò dire mai apertamente, ma ho dei forti sospetti su delle persone che comunque conoscono perfettamente quale sia la mia vita e con le quali sono entrato in contatto negli ultimi anni. E quindi ho dei forti sospetti. Poi questo ovviamente spetterà alle forze dell'ordine, agli investigatori, di identificare gli autori di queste lettere. Ovviamente le strade portano tutte verso un'area geografica ben precisa e verso una parte del mondo musulmano, vale a dire quello sciita. Cioè si tratterebbe, secondo le tue ipotesi, di persone provenienti da quell'area geografica, quindi da quella parte del Medio Oriente, che vivono a Roma? Che vivono a Roma, certamente. e che tu hai avuto occasione di conoscere. Certamente. Frequentando questa donna. Tu hai scoperto ad un certo punto altri elementi, altri particolari della storia della famiglia, anche della donna con cui hai avuto una relazione. Che tipo di elementi, ecco, hai scoperto? Ho scoperto che alcuni familiari di questa persona sono in stretto contatto, sono militanti di Hezbollah. Hezbollah è un movimento, significa Partito di Dio in italiano, è un movimento nato nel 1980 come opposizione all'occupazione israeliana del Libano, è attivo in Libano, finanziato dall'Iran e dalla Siria, e questi familiari sono militanti di questo partito. Ma ricordiamo che Hezbollah non è solo un partito presente in Parlamento, ma anche un movimento di resistenza paragonabile ad Hamas nei territori palestinesi. E perché la tua storia d'amore con una donna, diciamo, collegata sia pur non direttamente a questo ambiente, avrebbe dovuto procurarti queste minacce, sarebbe dovuta essere causa di minacce? Cos'è che secondo te può aver innescato questa reazione, questo desiderio di vendetta? Sicuramente il mondo musulmano non gradisce molto le critiche, pensiamo a Rushdie o pensiamo a chi ha fatto le vignette su Maometto, no? Un caso molto più recente, molto meno, certo, meno violento, quindi chi ha in qualche modo se ne è parlato di Islam a qualunque livello criticandolo non ha mai avuto delle giornate particolarmente felici. Io ho conosciuto queste persone, quindi sono una persona che ha vissuto con loro, che conosce le loro abitudini, conosce comunque anche le loro aspirazioni e i loro progetti in Italia. E poi il mio libro, che si chiama Diversi e Divisi, è sicuramente una fotografia, la constatazione di quanto siamo diversi, noi occidentali cristiani, dal mondo musulmano medio orientale. Ci arriviamo a raccontare che cosa tu scrivi in questo libro e che cosa potrebbe aver dato fastidio alle persone che sono arrivate a minacciarti. Ma secondo te, di recente ci sono stati casi drammatici di ragazze uccise anche dal padre stesso per scelte di vita occidentali, quindi in contrasto con i dettami generali più tradizionali e più severi. Ma secondo te è il fatto stesso che tu possa aver avuto una relazione con una donna proveniente da quell'area ad aver innescato tutto questo? Sicuramente l'Islam non prevede la convivenza, quindi il gesto che ha fatto tanto scalpore in Italia del padre che ha ucciso la figlia perché conviveva, rientra perfettamente nella logica musulmana. Anche il toccare la mano di una donna da parte di un uomo prevede che ci sia un matrimonio, quindi tutto quello che è al di fuori del matrimonio è sicuramente, come si dice in arabo, haram, quindi peccato da non fare. E quindi anche una persona che convive con un uomo senza un matrimonio di un'altra religione, perché l'Islam non prevede e non dà la possibilità ad una donna musulmana di sposare un uomo non musulmano. Quindi questi sono elementi che sicuramente hanno acuito le differenze e possono provocare questi forti risultati. Tu hai raccontato la tua storia d'amore con Amira. Che è finita come? Che è finita con una fuga, letteralmente una fuga, non da Alcatraz, ma una fuga dal mondo occidentale per ritornare in quelli che sono i dettami principali, fondamentali dell'Islam. Quindi il ritorno dalla sua gente nell'ottica musulmana più integralista. Ma pensi che sia stata una fuga che le sia stata imposta o piuttosto una sua scelta, una sua decisione? Questo bisognerebbe chiederlo all'autrice della fuga. A te non è stato comunicato nulla? Assolutamente no. Cioè tu dall'oggi al domani hai visto sparire la persona con cui vivevi? Sicuramente. Così, senza alcun tipo di spiegazione, senza alcun tipo di parola, di biglietto, anche soltanto privato? Assolutamente no. una vera fuga, come dicevo prima, dall'Occidente, quello che aveva vissuto per 3 anni. Che cosa racconti tu in questo tuo libro, Diversi e divisi? Mi incuriosisce in particolar modo l'inizio, cioè com'era andata? Era scappata anche in quel caso oppure aveva cercato un appoggio anche della sua famiglia? Sicuramente era arrivata in Italia con il consenso, con la voglia, con la soddisfazione e la felicità della famiglia. Una scelta che, diciamo, a noi sembra molto normale, quella di seguire il corso di un amore. Quindi potevamo definirla una donna occidentale, nel senso migliore del termine, e quindi con un'apertura al dialogo, con una cultura multietnica e multireligiosa, e la famiglia di questo era molto felice. Ma perché allora, se ha condiviso e ha dato la propria benedizione, diciamo così, passami il termine, a che seguisse te e quindi si avviasse verso un tipo di vita in un altro paese, con altre regole e con un'altra dimensione di vita, ad un certo punto è cambiato tutto ed è scappata e ad un certo punto sono arrivate le minacce anche per te? Cioè, se fin dall'inizio questa unione era anche condivisa dalla sua famiglia, con le sue tradizioni e con il suo bagaglio culturale, che cos'è secondo te che può aver portato ad un totale ribaltamento della situazione fino ad arrivare addirittura alle minacce? Tu che idea ti sei fatto? L'Islam ha dei precetti ben precisi, non seguirli è comunque un peccato, non solo nei riguardi di Allah ma anche nei riguardi della comunità. E quindi chi esce da queste regole viene anche messo all'indice dalla comunità nella quale vive, e a Roma, in Italia, la comunità musulmana è molto forte. Ricordiamo che su quasi 3.700.000 immigrati in Italia, quasi la metà è formata da musulmani, una grossa percentuale. Quindi chi non segue queste regole in qualche modo esce dalla legge della tribù. La famiglia di Amira vive in Italia o vive ancora in Libano? In Libano. I suoi rapporti erano rimasti costanti negli anni in cui lei viveva in Italia? Sì, molto, molto costanti, molto buoni, però avendo incrociato degli elementi integralisti a Roma, è stata risucchiata da questo fondamentalismo. Storielle. Storiacce. Io voglio vivere la mia vita tranquilla e libera come un giornalista, non mi piacerebbe manco essere seguito dove vado, no? Però o eliminiamo il problema o mi danno più sicurezza. Più difesa o, ancora meglio, la cattura di chi gli ha inviato proiettili sconvolgendogli la vita. Ecco cosa vorrebbe ora Nello Rega, inviato sotto tutela perché minacciato da estremisti islamici. Lui che quel mondo lo ha conosciuto dall'interno e in un certo senso anche abbracciato per un po' di tempo quando ha iniziato una relazione con Amira. Amira è una donna libanese che lo ha seguito e che dopo 3 anni di convivenza un bel giorno però è sparita nel nulla, senza una spiegazione o un segno. Ma Rega è convinto che dietro quella fuga ci sia l'influenza di alcuni estremisti incontrati in Italia e che quella sia l'origine anche delle minacce che lo costringono ora ad una vita blindata. Lui però ancor di più ora vuole rispondere a queste intimidazioni con iniziative benefiche a favore dei bambini del Libano, indicate nel sito diversiedivisi.it. Una richiesta da parte di altri a far sì che Amira tornasse in Libano e a far sì che ci fossero queste minacce per te? Qualcuno potrebbe aver indirettamente minacciato la sua stessa famiglia o lei stessa? Tu che pensi? Ma credo di no. Dici credo di no? Assolutamente di no. Però questo ovviamente è materia che spetta agli investigatori seguire per poter meglio identificare gli autori di questi gesti che sono abbastanza eclatanti. Adesso tu sei sotto scorta? No, io ho una vigilanza particolare, però come ho detto nelle settimane scorse, sono molto felice di aver avuto la solidarietà a partire dall'osservatorio della federazione Ossigeno, Spampinato, che è responsabile, articolo 21, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la federazione, molti onorevoli eccetera, molti colleghi, la mia stessa testata. Oltre questo non ho avuto delle concrete risposte da parte dello Stato. Sono, diciamo, sicuramente dirò una cosa molto banale, ma che forse spero che faccia riflettere: chi ha dei proiettili ha anche una pistola. Il passo tra l'inviare un proiettile e poterlo mettere in una pistola, in un caricatore, non credo che sia molto, molto lungo. Ad oggi io cammino, vivo, lavoro, continuo il mio lavoro con più tenacia rispetto a prima, e voglio continuare con grande energia la diffusione di questo libro, di questo messaggio, dopo aver ricevuto le minacce. A maggior ragione, le minacce non devono fermarmi, io non mollerò, l'ho detto in più occasioni, però ovviamente sono da solo. Quando tu sei andato a presentare una denuncia, dopodiché si è attivato un meccanismo per farti avere una tutela? Certamente, le tutele vengono decretate dai comitati provinciali per l'ordine pubblico, certamente sì. Però tu vorresti avere una scorta più forte, insomma ti senti un po' esposto al rischio di altre minacce, se non di gesti ancora più folli? Sicuramente, perché faccio un esempio: sono andato in una trasmissione televisiva nella quale in diretta mi sono state fatte domande, ho parlato del mio pensiero sull'Islam, e poi sono uscito da questo studio televisivo e sono tornato alla mia... siamo al mio lavoro. In questo ritorno ero sicuramente da solo, e questo mi preoccupa non poco, perché ci potrebbero anche essere degli emulatori di questa, degli autori principali di queste minacce. La prefazione del tuo libro è firmata dal ministro dell'agricoltura Luca Zaia, un noto esponente della Lega. La Lega ha, nel suo lessico, che non è sicuramente diplomatico, ha a volte portato avanti alcune campagne anche abbastanza dure nei confronti del mondo musulmano in generale e dell'Islam. Tu pensi che in qualche modo anche questo possa aver contribuito alle minacce contro di te? In qualche modo sei stato associato a quell'area politica, a quella corrente, diciamo, di pensiero, e quindi anche a certe campagne della Lega sull'Islam? No, assolutamente no, perché la copertina del libro non riportava, che mi è stata spedita, non riportava questa prefazione di Zaia. Nel libro non ci sono, nella prefazione del ministro Zaia è una prefazione di un cittadino italiano, che è ovviamente un ministro della Repubblica, molto, molto tranquillo. Non mi identifico, io sono un giornalista indipendente, il mio pensiero lo esprimo solo quando mi reco nella cabina elettorale, come dovere civico di italiano, di cittadino, quindi non c'è assolutamente un discorso politico. Io sono descritto nel libro, oltre alla storia della quotidianità vissuta con questa donna libanese, ho descritto che cosa sia l'Islam, mettendo dentro i saggi, i libri, le citazioni dei teologi musulmani, prendendo le loro parole e facendo decidere al lettore che cosa sia davvero l'Islam, che in italiano significa sottomissione. Di tutta questa quotidianità che tu racconti nel tuo libro, Diversi e divisi, qual è l'aspetto, qual è il dettaglio, l'elemento, l'episodio che ci potresti raccontare e che consideri quello più forte di questa diversità? L'ho descritta nell'ultimo capitolo, che si chiama Il perdono. A questo mi vorrei collegare ad un progetto che è dietro il libro. Io nel 2005 ho dato vita con altri amici ad una onlus che è attiva in Libano, che si chiama Liban Italy. È un progetto che ha aiutato in questi anni effettivamente le popolazioni sciite, sunnite, i drusi, i cristiani in Libano. E continueremo anche, grazie alla vendita di questo libro, a fare nuove operazioni, a costruire nuove dune con i granelli di sorrisi che verranno dalla vendita di questo libro. Questo credo che possa essere la risposta al male ricevuto che sta nel perdono, appunto, quello che ci indica San Paolo. E ritorniamo appunto al Libano. Tu è lì che hai conosciuto Amira. Ci vuoi raccontare com'è andata? L'ho conosciuta durante uno dei miei viaggi di lavoro, seguendo le elezioni presidenziali del 2005, quelle che si sono svolte dopo l'uccisione dell'ex premier Rafik Hariri, dopo l'uscita dal Libano della Siria che per 30 anni ha occupato il Libano. E ero lì per lavoro, per seguire queste elezioni, e ho conosciuto questa donna che allora aveva l'hijab, come gran parte della popolazione musulmana in Libano. Dopo questa conoscenza lei ha deciso di seguire il suo amore, togliendo l'hijab, venendo in Italia e pur rimanendo musulmana di convivere nel rispetto delle religioni e dei credi di ognuno. E tutto è filato, diciamo, più o meno bene finché non c'è stato questo incontro con estremisti di Hezbollah a Roma, giusto? Penso proprio di sì. Secondo te, quanto è forte la presenza anche di estremisti vicini ad Hezbollah a Roma oppure in altre città italiane? Sicuramente l'Italia è un punto di arrivo di terroristi che poi da qui trovano le strade dell'Europa. E Hezbollah è attiva in Europa, sono stati sventati nei mesi scorsi alcuni attentati che stava progettando. E sicuramente è molto forte, questo ce lo dicono comunque i dati pubblici dei nostri servizi di informazione, è molto forte la presenza in Italia. Tu li hai mai sentiti fare discorsi violenti, diciamo, di minaccia o piuttosto che di imprecazioni contro rappresentanti del nostro paese, piuttosto che come contro istituzioni in quanto tali? Sicuramente. Ti posso chiedere quali? Sicuramente questo governo non è molto simpatico agli integralisti musulmani, ma al mondo musulmano in genere. I rappresentanti politici in quanto tali? I rappresentanti politici che in qualche modo rappresentano le istituzioni, sono ai vertici del nostro Stato, così come non è molto gradita la posizione che il pontefice ha.